Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un violento incendio è divampato nelle prime ore del mattino in un capannone nella fabbrica dei surgelati della Gobbo ad Azzano Decimo. Nessun ferito, ma un denso fumo nero si è sprigionato dall'impianto. Cittadina invitata a tenere chiuse le finestre. Fine vita, condanna del Tribunale di Trieste nei confronti di Asugi per il caso di Martina Oppelli, la donna a cui è stato negato l'accesso alla morte volontaria medicalmente assistita. Al Tribunale di Udine questa mattina l'interrogatorio di garanzia per i tre giovani coinvolti nell'aggressione che lo scorso 22 giugno ha portato alla morte dell'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga, colpito da un pugno al volto in un locale cittadino. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. 200 scienziati da tutto il mondo a confronto in questi giorni a Trieste, la stazione marittima, dove è in corso una conferenza organizzata dall'ICGEB su DNA, tumori e virus. Si parla anche di un vaccino che già esiste da tempo contro un tumore, quello alla cervice uterina. Le vaccinazioni però vanno a rilento. Softball, ultima giornata dei gironi di qualificazione della Coppa del Mondo femminile in corso a Castions di Strada. Le azzurre devono fare di tutto per assicurarsi il secondo piazzamento del girone A questa sera alle 20:30 contro la nazionale canadese favorita dopo la pesante sconfitta 7-0 ad opera degli Stati Uniti ieri sera. A Gorizia via Rastello diventa via della creatività, nuovi spazi per progetti culturali, in particolare quello di Borgo Cinema, che diventa contenitore e fonte di ispirazione per progetti cinematografici. Un progetto editoriale inedito, quello promosso dal GAL Carso e da Torre Natisone GAL, che ha per titolo Sentieri e cibi locali. Si tratta di un volume composto da 12 racconti originali di autori famosi del territorio e un libro fotografico. Le 12:32 minuti in questo istante, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Lorenzo Gherlinzoni in studio a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 17 luglio. In apertura di giornale la cronaca, perché un violento incendio è divampato nelle prime ore del mattino alla Gobbo, azienda alimentare di surgelati ad Azzano Decimo. Le fiamme si sarebbero sprigionate, secondo una prima verifica, in modo accidentale per il cortocircuito di un frigo, interessati 2.500 metri quadri di capannone destinati a deposito e 4 furgoni. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto per l'operazione di spegnimento impegnate 9 squadre dei vigili del fuoco. Il comune ha invitato la popolazione a tenere chiuse le finestre e i centri estivi, a non far giocare bambini in giardino. L'allarme poco prima delle 6, l'azienda di surgelati Gobbo di Azzano Decimo va a fuoco, 2.500 metri quadri di capannone coinvolti, all'interno prodotti destinati ai ristoranti del litorale friulano e veneto, interessati anche 4 furgoni pronti a partire. I danni sarebbero di centinaia di migliaia di euro. Ad accorgersi del rogo, i titolari che abitano di fronte allo stabile sono loro che chiamano i soccorsi e mettono in salvo gli anziani genitori nell'appartamento adiacente al magazzino. La testimonianza di un dipendente. La nuora si è accorta la mattina verso le 5:15 si è accorta e ha subito allertato i soccorsi. Il titolare è riuscito a salvare i genitori che praticamente abitano sopra il magazzino. Il fuoco si è sviluppato in una città impressionante. Avete capito da dove sono partite le fiamme? Non si sa se è dal lato dove vengono messi in carica i veicoli oppure se sia partito dall'impianto fotovoltaico. Le cause del rogo sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco, intervenuti con 35 uomini e 9 mezzi dal comando di Pordenone e distaccamenti di Maniago e San Vito, con il supporto dei colleghi di Treviso. Tra le ipotesi, un cortocircuito partito dalle celle frigorifere. Sul tetto è anche presente un impianto fotovoltaico. Marco Tancone, funzionario dei vigili del fuoco di Pordenone. L'area interessata è di circa 2.500 metri quadri di capannone industriale destinato al deposito di prodotti refrigerati. La situazione adesso al momento è abbastanza sotto controllo, stiamo spegnendo gli ultimi focolai, dopodiché andremo a vedere all'interno i danni effettivi che sono stati prodotti dall'incendio. Il denso fumo sprigionato si è spostato verso il centro del paese, in località Fagnigola. L'invito è di tenere le finestre chiuse e restare in casa. Tecnici ARPA sul posto. Il vice sindaco Giacomo Spagnol. Abbiamo chiesto alla popolazione di rimanere a casa, soprattutto nelle zone limitrofe dell'incendio, di tenere le finestre chiuse. Abbiamo inoltre dato indicazioni ai centri estivi comunali di tenere i bambini all'interno e di non farli uscire durante il giorno, in attesa dei dati di ARPA, che adesso sta effettuando dei monitoraggi. Azzano Decimo. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La condanna del Tribunale di Trieste nei confronti di Asugi per il caso di Martina Oppelli, la donna a cui era stato negato l'accesso alla morte volontaria medicalmente assistita, ha fermato il diritto a ricevere dall'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina una rivalutazione delle sue condizioni per verificare il requisito del trattamento di sostegno vitale. Lo rende noto l'associazione Coscioni. Asugi ha da oggi 30 giorni per le verifiche, poi dovrà pagare 500 euro alla donna per ogni giorno di ritardo, oltre alle spese di giudizio. Asugi dovrà rivalutare le condizioni di Martina Oppelli, la 49enne triestina affetta da sclerosi multipla, che ha chiesto di poter accedere alla morte volontaria assistita e si è vista respingere l'istanza. Lo ha stabilito il Tribunale di Trieste con una decisione analoga a quella già presa nella vicenda di Anna, che è stata in seguito la prima persona in Italia ad avere accesso al suicidio medicalmente assistito con farmaco e strumentazione del Servizio Sanitario Nazionale e un medico di Asugi. Ad annunciarlo è l'associazione Luca Coscioni, che sta affiancando Martina Oppelli nella richiesta. Anche in questo caso Asugi aveva negato che la donna fosse dipendente da un trattamento di sostegno vitale, requisito indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato per poter accedere alla morte volontaria assistita. La Oppelli, tuttavia, spiega l'associazione, necessita di assistenza continuativa per svolgere qualsiasi attività dall'alimentazione all'assunzione dei farmaci e a 8 mesi dal diniego di Asugi le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate. Ora l'azienda sanitaria avrà 30 giorni di tempo per la rivalutazione e dovrà pagare 500 euro per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine. La decisione del Tribunale di Trieste e il commento di Martina Oppelli denota grande sensibilità. Ora vorrei che questo mio piccolo movimento immobile scuotesse le coscienze di chi ha la capacità e il potere di aprire varchi legali in muri che sembrano invalicabili. Nel rivalutare il caso di Anna, Asugi aveva riconosciuto nell'assistenza continuativa da parte di terze persone il requisito del sostegno vitale, mentre per Martina Oppelli ha negato questa lettura, evidenzia la segretaria nazionale dell'associazione Filomena Gallo, sottolineando come quest'ultima necessiti di una dose massiccia di farmaci per alleviare le sofferenze, utilizzi una macchina della tosse e, a sua volta, dipenda in tutto e per tutto dagli altri, in qualsiasi attività e funzione vitale. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Con un finanziamento di 1,5 milioni di euro, la Unione Europea promuove il progetto Rescue, con l'obiettivo di sviluppare un nuovo farmaco a RNA in grado di rigenerare il cuore e simultaneamente promuovere la vascolarizzazione del tessuto. Il progetto è coordinato dall'Università degli Studi di Trieste e coinvolge esperti di rigenerazione cardiaca e angiogenesi provenienti da Italia, Spagna, Olanda, Slovacchia e Turchia. I ricercatori hanno già identificato alcune molecole candidate che si sono rivelate in grado di promuovere, da un lato, la proliferazione delle cellule del muscolo cardiaco, dall'altro la formazione di nuovi vasi sanguigni, sia piccoli capillari che arterie più grosse. Nei prossimi 3 anni i ricercatori sperimenteranno diverse combinazioni fino a identificare quella più efficace. Sarà la prima volta che 2 molecole biologiche capaci di stimolare questi 2 processi fondamentali per la riparazione di un cuore infartuato vengono unite in un unico farmaco. La cronaca si aggrava alla posizione di fronte alla giustizia dei 2 giovani di Conegliano implicati nell'aggressione che lo scorso 22 giugno ha portato alla morte a Udine dell'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga, colpito da un pugno al volto in un locale cittadino. Il pubblico ministero contesta loro il concorso morale nell'omicidio preterintenzionale di cui è imputato Simone Battistella, il 19enne di Mareno di Piave, accusato di aver sferrato il pugno mortale. Questa mattina in tribunale si è tenuto l'interrogatorio di garanzia per tutti e 3 che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i 3 indagati per l'ipotesi di omicidio preterintenzionale in relazione alla morte dell'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga, di 56 anni, avvenuto il 22 giugno a Udine mentre si trovava in un locale di via Pellicerie con 2 amici. Samuele Battistella, 19 anni, residente a Mareno di Piave, Daniele Wedam, 19 anni, e Abdallah Juma, 21 anni, entrambi di Conegliano, hanno incontrato il magistrato nel carcere di Via Spalato dove sono detenuti per l'interrogatorio di garanzia. Tino Maccarrone, avvocato difensore. È stato utile e prudente avvalersi della facoltà di non rispondere proprio perché non è ancora conoscenza delle difese tutto il materiale. Ci si riferisce anche a due filmati che sembrerebbero essere stati acquisiti o comunque in fase di acquisizione, quindi dobbiamo avere tutta la situazione. Intanto la posizione di Daniele Wedam e Abdullah Juma si aggrava. Gli inquirenti hanno modificato l'ipotesi d'accusa e anche i due amici saranno chiamati a rispondere in concorso morale con Battistella dell'omicidio preterintenzionale, accusa formalmente contestata con una richiesta al GIP. Inoltre è stata revocata dal GIP la misura cautelare per il reato di rissa. Attualmente Samuele Battistella, il ragazzo che ha materialmente sferrato il pugno che ha causato la morte dell'imprenditore giapponese, si trova in carcere. Nei confronti degli altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Sia Wedam sia Juma sono però ancora in cella in attesa della disponibilità dei braccialetti. Ancora l'avvocato Maccarrone. Andremo comunque al riesame perché a parere di questa difesa diciamo che l'ipotesi accusatoria non ci sta del concorso. Ci affideremo al Tribunale del riesame perché valuti questa nuova imputazione. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La polizia locale di Trieste è intervenuta a rilevare un incidente in pendice Scoglietto all'altezza di Via del Prato, dove un motociclista era caduto dopo aver cercato di evitare una vettura che non gli aveva dato la precedenza e il cui conducente, dopo essersi fermato un attimo, si era poi dileguato. Grazie ad alcune testimonianze, gli agenti sono quindi riusciti a rintracciare il mezzo in sosta poco lontano e a rimuoverlo, mentre il proprietario è stato denunciato per omissione di soccorso. La quarta commissione regionale ha in calendario nel pomeriggio l'illustrazione della delibera attraverso la quale la Giunta, in particolare l'assessore alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, propone l'adozione del piano energetico regionale, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. I consiglieri esprimeranno un parere martedì 30 luglio, dopo la settimana dedicata alla manovra di bilancio estiva, che vedrà impegnata l'intera assemblea legislativa da martedì 23. Le esperienze che hanno portato alla chiusura delle province e quelle che oggi conducono al ripristino invece degli enti di area vasta saranno al centro di un confronto promosso dall'Associazione Culturale Un Altro Passo. Protagonisti gli ex presidenti di provincia Dario Locchi, Dario Crozzoli, Renzo Codarin, Maria Teresa Bassa Poropat, insieme all'ex consigliere regionale Emiliano Edera e all'attuale assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, introducono il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro e il sindaco di Muggia Paolo Polidori. Alle 18.30 nella sala conferenze dell'NH Hotel di Corso Cavour a Trieste. E ora uno sguardo alla situazione del meteo. Il cielo è sereno su pianura e costa, da nuvoloso variabile in montagna. Queste le temperature registrate poco fa. A Trieste 32 gradi e 5 decimi, mare poco mosso con temperatura di 28 gradi. A Gorizia 33 gradi e 5 decimi, a Pordenone 31 gradi e 5 decimi, a Udine 31 gradi. A Tolmezzo 28 gradi, a Forni di Sopra 25 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 24 gradi e 5 decimi. A Sappada 22 gradi, a Piancavallo 21. Sul Monte Zoncolan 17 gradi e 5 decimi, passando alla costa, a Lignano 31 gradi e 5 decimi, a Grado 30 gradi e mezzo e la temperatura del mare è di 29 gradi e 5 decimi. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per le prossime ore: su pianura e costa ancora cielo sereno poco nuvoloso, in montagna cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio specie sui settori di montani più interni al confine con l'Austria probabili temporali anche localmente forti, sulla costa e sulle zone orientali soffierà borino specialmente al mattino e alla sera, in giornata venti a regime di brezza specie a ovest, continuerà a fare è caldo ma rimarrà abbastanza secco. Domani cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio non è escluso qualche rovescio temporale sparso sulla zona montana occidentale, soffierà borino fino al mattino, poi venti di brezza, specie ad ovest. Continuerà a fare caldo, ma rimarrà ancora relativamente secco. 200 scienziati da tutto il mondo sono a confronto in questi giorni a Trieste, la stazione marittima, dove è in corso una conferenza organizzata dall'ICGEB su DNA, tumori e virus. Si parla nell'occasione anche di un vaccino che già esiste da tempo contro un tumore, quello alla cervice uterina. Le vaccinazioni però vanno a rilento. Provengono da oltre 30 paesi di tutto il mondo e molti di loro sono già passati per Trieste, dove hanno svolto il loro PhD, il dottorato di ricerca. E Trieste, la città della scienza per eccellenza in Italia, è stata trampolino di lancio della loro carriera. Alla stazione marittima di Trieste è in corso un ciclo di conferenze della durata di 4 giorni dal titolo DNA, tumori e virus, organizzato dall'ICGEB, il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia, che opera da oltre 30 anni nel sistema delle Nazioni Unite nei diversi settori delle scienze della vita. Ricercatori da tutto il mondo, ben 200, stanno discutendo delle ultime ricerche relative al DNA, allo sviluppo dei tumori, alle ultime terapie contro il cancro. Ad organizzare da 8 anni questo meeting è Lawrence Banks, capo del laboratorio di virologia dei tumori, direttore generale dell'ICGEB del 2019. Quando parliamo di vaccino contro i tumori, non pensiamo che da tempo uno già esiste, dal vaccino contro il papillomavirus, il cancro alla cervice uterina, gratuito per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 26 anni. La copertura vaccinale è buona ma non ottima e dipende da regione a regione. In Italia gli ultimi dati parlano del 75% di copertura tra le ragazze, solo il 22% tra i ragazzi. Il professor Banks è specialista in questo settore e ci spiega che a far bene sono i paesi che hanno inserito la vaccinazione direttamente a scuola, per esempio l'Australia, ci dice il Regno Unito. Infatti qui la copertura vaccinale raggiunge il 99% della popolazione. Importante la presenza del professor Matthew Witzman dell'Università della Pennsylvania, che parla della regolazione dell'RNA virale e delle nuove scoperte relative ai meccanismi tumorali. RNA, un termine che abbiamo imparato a conoscere durante il periodo del Covid, e a proposito di Covid ci ha detto che durante la pandemia tutti gli scienziati hanno dovuto lasciare il campo nel quale stavano studiando per impegnarsi a sconfiggere il virus, ma una delle lezioni che sicuramente hanno imparato è stata quella di dare importanza alla scienza di base, osservare come le cellule rispondano all'RNA e quindi l'importanza di tornare ad incontrarsi tutti tra scienziati e capire come i meccanismi di base lavorino dentro le cellule. Questo ci favorirà nel futuro a trovare più tempestivamente nuove forme di tumore, nuove naturalmente terapie per combatterlo. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La bergantina Palinuro, splendida nave scuola a tre alberi della nostra marina militare, attracca a Trieste oggi per rimanervi fino al 22 luglio. La nave sarà visitabile al pubblico nelle giornate di oggi, di domani e di dopodomani, dalle 16 alle 20, poi sabato dalle ore 9 alle 12, dalle 16 alle 20 e nella giornata di domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, ingresso dal Molo Quarto. A Gorizia, via Rastello diventa via della creatività, con nuovi spazi per progetti culturali, in particolare quello di Borgo Cinema, che diventa così contenitore e fonte di ispirazione per progetti cinematografici. Creatività che restituisce ai luoghi e alle persone. Via del Rastello si trasforma da spazio commerciale ormai inutilizzato a contenitore culturale e Borgo Cinema è così il nuovo punto di incontro di eccellenze cinematografiche come l'associazione Palazzo del Cinema ISA Film, Cross Border Film School, Kino Atelier ed Estoria. Qui prende forma il progetto che vuole essere fonte di ispirazione per registi e sceneggiatori che in via Rastello legano le loro residenze artistiche. Un progetto curato dal produttore cinematografico Francesco Ranieri Martinotti, presidente nazionale di ANAC, che ha scelto tra i primi candidati Fabian Medea, regista sudafricano, candidato con il suo Wild is the Wind ai BAFTA Film Awards. Oggi scrive la sceneggiatura di The Easy Life, la storia di due amici che trascorrono un weekend tra i vigneti. E poi Giuseppe Gaudino, vincitore della Coppa Volpi alla Mostra di Venezia nel 2015 per la miglior interpretazione al femminile, quella di Valeria Golino nel film Per Amor Vostro. Ora è impegnato nella raccolta di storie locali per sviluppare il soggetto de Il Quadrato Nero, è ispirato alla tradizione del merletto goriziano e ai ricami delle orsoline. Parla dell'inspiegabilità di fatti eccezionali, di storie realmente accadute che possono suggerire l'esistenza della vita oltre la morte e la sopravvivenza dell'anima. Dietro alle vetrine di Borgo Cinema c'è anche la regista Isabella Sandri, alle prese con il montaggio del documentario Nel cuore del Teatro Valle, che racconta la vicenda dell'occupazione dello storico teatro di Roma. Creatività che vuole essere permanente e attrattiva in vista di Go 2025. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. È un progetto editoriale inedito, quello promosso da Gal Carso e da Torre Natisone Gal, Sentieri e Cibi Locali. Si intitola un volume composto da 12 racconti originali e un libro fotografico. Gli autori entrano in intima connessione con la memoria collettiva di queste terre attraverso le loro personali esperienze e i loro ricordi. Sentiamo David Pizziga, presidente del Gal Carso. L'idea era quella di selezionare dei turisti, perché i nostri posti sono di altissima qualità, di un'altissima biodiversità, ma non sono posti per un turismo di massa. E quindi abbiamo cercato di creare, di trovare un messaggio pubblicitario marketing che possa ben selezionare i turisti, e lo abbiamo fatto con un libro, un cofanetto, ovvero sono due libri, uno è una raccolta di immagini stupende, di fotografie stupende che prendono spunto sia dal Natisone del Torre sia dal territorio carsico, e abbiamo 12 racconti scritti da 10 scrittori e scrittrici e scrittori che ne fanno, diciamo, un riassunto. Il riassunto è un po' quello del filologico, di condurre, di legare i vari sentieri che comunano e legano questi due territori, sembrano essere molto lontani ma sono vicinissimi, e ovviamente anche vengono legate attraverso delle ricette, ricette tradizionali, come potrebbe essere, mi viene proprio in mente la base, la gubana per quel che riguarda i territori di Torre Natisone, e il struccolo in strazza cotto per quel che riguarda il territorio carsico, goriziano e triestino. Siamo allo sport con il calcio. L'Udinese continua gli allenamenti sui campi del Bruseschi in vista della prossima stagione. Ieri a Lignano la società bianconera ha presentato la nuova maglia con cui la squadra giocherà le partite casalinghe allo stadio Friuli. Si tratta di una casacca che torna al passato e che ricorda quella che si indossava nella stagione 95-96, il primo dei 30 campionati consecutivi che la squadra friulana disputa ormai in Serie A. Nomi dei giocatori e numeri di maglia sono neri, bordati in oro. Inoltre compare sui numeri, sempre in oro, l'aquila del Friuli. Un richiamo al passato che è anche nello slogan orgogliosamente bianconeri, con cui la squadra, sempre ieri, ha lanciato la nuova campagna abbonamenti che da quest'anno si possono acquistare solo via internet e presso le rivendite autorizzate, e non più allo stadio Friuli. La prima fase comincia domani, finisce il 31 luglio ed è riservata ai vecchi abbonati. Oggi intanto una nuova amichevole a Codroipo, si gioca contro la squadra di Pola che disputa la Serie A croata, fischio d'inizio alle 19. E la Triestina ha concluso l'ingaggio del terzino sinistro olandese Theun Bieleveld, classe 98, che si è legato alla squadra labardata con un accordo di durata biennale. Formatosi calcisticamente a livello giovanile nella Z Alkmaar, nel biennio 17-19 è passato all'Ajax Under 21 collezionando 55 presenze, 4 reti, 14 assist e conquistando la vittoria nella seconda divisione olandese. Nelle ultime due stagioni ha militato nella Roda in seconda divisione olandese mettendo insieme 55 presenze impreziosite da 2 reti e 3 assist. Nel suo curriculum Bieleveld può vantare anche 28 presenze e 2 reti con le nazionali olandesi giovanili. Softball, ultima giornata dei gironi di qualificazione della Coppa del Mondo femminile in corso a Castions di Strada. Le azzurre devono fare di tutto per assicurarsi il secondo piazzamento nel girone A questa sera alle 20:30 contro la nazionale canadese favorita. Dopo la pesante sconfitta subita 7-0 a opera degli Stati Uniti ieri sera. Ad assistere al match all'Arena di Castion ci sarà anche il ministro dello sport, Abodi. Il sogno di contrastare lo squadrone americano per le azzurre dura mezzo inning. Isabella Dayton apre l'incontro con una battuta valida che porta le compagne fino alla terza base. L'Italia però non concretizza e da quel momento è notte fonda. La lanciatrice statunitense Megan Faraimo si ricorda di essere un fenomeno ed elimina 13 battitrici avversarie. Poi attacco in mano alle americane. Cristina Tognoli in pedana a buon gioco sulle prime con la tattica di lancio nella zona bassa dell'area di strike. Poi però la squadra americana trova le contromisure necessarie e porta a casa il primo punto. Nel secondo inning un fuoricampo di Warren vale il 2-0. La squadra americana allunga ulteriormente nella terza ripresa grazie ad un doppio in apertura di frazione e due rimbalzanti che valgono il 3-0. Nel quarto inning le azzurre tengono a zero le avversarie, ma Megan Faraimo si dimostra di nuovo ingiocabile dalla pedana di lancio e il punteggio rimane invariato. Nella ripresa successiva gli Stati Uniti chiudono i giochi. Bates, Jackish e Jeff riempiono le basi che Warren, pericolo numero uno per la difesa azzurra, svuota con un fuoricampo sul primo lancio di la catena. Si va sul 6-0, preludio al punto decisivo siglato da Warren, che vale il successo anticipato per la formazione a stelle e strisce in base alla cosiddetta mercy rule, che interrompe le partite quando il divario di punteggio fra due formazioni è troppo ampio. Gli Stati Uniti con questo successo raggiungono Giappone e Olanda al turno successivo. La quarta squadra che accederà al girone per le medaglie si scoprirà solamente al termine della partita di stasera tra Italia e Canada. Alle 20:30 sul Diamante di Castions sarà un vero spareggio. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Ciclismo, il 51esimo giro del Friuli Venezia Giulia Master sarà dal 1 al 3 agosto e nel gruppo ci saranno anche gli atleti paralimpici di categoria C4 e C5. A comporre il programma di corsa saranno tre tappe: giovedì 1 agosto con l'Aquileia di 96,6 km, tappa completamente in linea che attraverserà zone paesaggisticamente molto suggestive. Il giorno successivo si correrà la 13esimo Forni di Sopra di 89,6 km, tappa impegnativa con l'arrivo in salita che potrebbe determinare i primi equilibri in classifica. Finale sabato 3 agosto con la Consorzio Ponte Rosso, si partirà dal territorio comunale di San Vito al Tagliamento per raggiungere San Daniele del Friuli e tornare verso la zona della partenza. Qui circuito finale pianeggiante per andare a decretare i vincitori. Gli spettacoli, secondo giorno per Mitel Young, il festival nel festival dedicato agli artisti under 30, una giornata ricca di spettacoli che arrivano da Olanda, Svizzera e Serbia. Si inizia alle 17 a Cividale nella chiesa di Santa Maria dei Battuti con la danza di Home che racconta una storia di adozione e il viaggio dalla Cina all'Europa. Al Teatro di Storia alle 18:15 Santa and Glitter, lo spettacolo di circo che unisce le capacità artistiche ed acrobatiche del duo svizzero all'immaginario della disco anni 80. Infine alle 20 di nuovo nella chiesa di Santa Maria dei Battuti lo spettacolo teatrale Lonesome Balkan, Balcani solitari, una storia che parla di peccato e di redenzione con una buona dose di umorismo nero. In occasione del 30esimo anno dalla sua scomparsa, il Cinema Zero di Pordenone omaggia la figura di Massimo Troisi con la proiezione del documentario Laggiù qualcuno mi ama, diretto da Mario Martone, ore 21:30. Giobbe, storia di un uomo semplice, tratto dal romanzo di Joseph Roth, arriva alla Sala Teatro Incontro di San Rocco a Gorizia alle 18. E per la rassegna Il Teatro C'era una volta, spettacoli estivi per grandi e bambini a Spilimbergo e di scena Naso d'Argento della compagnia La Prisogni, ore 20:45 nel cortile di Palazzo di Sopra. Incontro con Suad Genem, autrice del libro Il racconto di Suad, prigioniera palestinese, alle 18:30 alla libreria Knulp di Trieste. Prima di chiudere, un'informazione di servizio: Asugi comunica che a causa di un guasto le linee telefoniche dell'ospedale di Monfalcone sono momentaneamente fuori uso. In caso di necessità si invita la cittadinanza a contattare il centralino dell'ospedale di Gorizia al numero 0481 5921. I tecnici stanno provvedendo al tempestivo ripristino delle linee. E alle 12:57 minuti si chiude così la seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Lorenzo Garinzoni e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Jacopo Brunisso. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle ore 15. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.